Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: innanzitutto auguri a tutte le donne, a partire da quelle presenti in regia per l'8 marzo. Parleremo di condizione femminile sul lavoro e nell'economia, chiaramente. Al di là, vedo già dei messaggi sull'idea dello sciopero, alcuni dicono può essere un boomerang controproducente proprio per le donne che lavorano e che non hanno rete di protezione. Parleremo dei dati invece che sono positivi sulla crescita del numero di donne a livello dirigenziale, ma ancora largamente insufficienti. Do un dato su tutti: negli ultimi 5 anni il numero di donne dirigenti è cresciuto del 16%, mentre il numero di uomini dirigenti è calato del 6%, come anche normale avvicendamento anagrafico, non in questo caso di genere. Però il numero complessivo delle donne dirigenti in questo paese, parlo del settore privato, è ancora del 16%, quindi obiettivamente non rispecchia neanche lontanamente quella che è la proporzione, diciamo, una distribuzione del lavoro tra uomini e donne. Ma ne parleremo più avanti. Inizieremo subito invece con la flat tax. Perché? Cos'è? Alcuni immagino si arrabbieranno, però c'è un progetto del governo, e non solo, di cercare di intercettare quello che capiterà in Gran Bretagna quando sarà operativa la Brexit, che ancora è là da venire, anche perché sappiamo che su questo oggi ci sono state anche dichiarazioni importanti che arrivano proprio dalla Gran Bretagna sul Brexit, sull'andamento dell'economia. Però ieri la Camera dei Lord ha approvato un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May a sottoporre al voto del Parlamento il risultato dei negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi adesso l'emendamento dovrà passare alla Camera dei Comuni, che invece è contraria. Il governo è contrario a dover, diciamo, avere l'approvazione parlamentare e punta ad avere un'approvazione senza modifiche, senza passaggio parlamentare. Oggi c'è dato anche sul PIL britannico che va bene. Qualcuno mi sta già scrivendo: vedi che la Gran Bretagna va bene nonostante la Brexit. Allora, però è come quando qualcuno mi dice la Gran Bretagna ha fatto bene a uscire dall'euro, non c'era mai entrata. La Brexit non è ancora iniziata. In Gran Bretagna i nostri cittadini, le regole, la presenza delle multinazionali che vogliono avere una sede in Europa è rimasta invariata. Non c'è ancora un atto formale dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi i dati economici che noi stiamo commentando sono dati economici di un paese che è dentro l'Unione Europea. Vedremo cosa succederà dopo, ma è inutile dire vedi che la Gran Bretagna va bene perché è uscita dall'Europa, che ancora deve iniziare a farci capire qual è il processo, cosa farà, i tempi, quando attiverà l'articolo famoso per l'uscita. Per cui insomma non c'è nulla. Lo dico, poi qualcuno può continuare, anzi correttamente, a pensare che la cosa migliore sia uscire dall'Unione Europea. La Gran Bretagna non aveva l'euro, ma dire che questi sono gli effetti della Brexit è dire una cavolata di dimensioni galattiche, perché non è ancora uscita dall'Unione Europea. Parleremo di questo perché, dicevo, l'Italia ha un progetto di flat tax. Cosa vuol dire? Vuol dire una tassa fissa sostanzialmente a 100.000 euro per cercare di intercettare i miliardari, i ricchi, che dovessero abbandonare l'Inghilterra. Cioè sostanzialmente già una proposta del genere l'ha avanzata per esempio la Spagna, che ha avuto un dato interessante. Su poi le categorie sono sostanzialmente emiri, calciatori e cantanti, quindi abbiamo sbagliato lavoro. Ma detto questo, la cosa interessante è che l'agevolazione prevista dall'ultima legge di bilancio riguarderà solo chi è residente all'estero da almeno 9 periodi di imposta negli ultimi 10 anni. Quindi devi essere realmente residente all'estero da 10 anni, da 9 periodi di imposta. La convenienza è soprattutto per chi ha grandi patrimoni, perché la flat tax vuol dire che tu paghi una tassa fissa di 100.000 euro l'anno e per il fisco sei a posto. Ci sarà una lista predisposta, appunto una checklist predisposta dall'Agenzia delle Entrate e via così. Ripeto, c'è la Spagna, ma non è solo la Spagna quella che ha messo in campo un'iniziativa analoga. Ne parleremo in apertura, poi parleremo della Fiera di Roma, perché ha vinto la nostra classifica venerdì, c'è qualche correzione da fare, in positivo, meglio ancora, se possiamo correggere la classifica con notizie più positive di quelle che risultavano a noi. Qualcuno mi scrive, ma avete detto che dopo la Brexit sarebbe stato il disastro? No, abbiamo detto, al di là della reazione dei mercati lì per lì, che il rischio per la Gran Bretagna era di avere una fuoriuscita di società con sede lì e di avere un problema anche nei flussi, perché la Gran Bretagna riesce a attrarre teste, non solo braccia. Dopodiché vedremo quella che sarà la reazione del governo britannico, perché se la Gran Bretagna poi come contromossa proporrà tutto un insieme di agevolazioni fiscali, vedremo poi come farà a reggere sul fronte delle entrate. Vedremo se le agevolazioni fiscali saranno sufficienti per quei grandi gruppi che usavano la Gran Bretagna come sede della loro presenza in Europa e non potranno più farlo quando la Gran Bretagna sarà uscita dall'Unione Europea, perché a quel punto non sarà più un paese, sarà un paese extra UE, un po' come diciamo la Svizzera. Vedremo che accordi riuscirà a ottenere l'Europa, che cosa chiederà in cambio Bruxelles se la Gran Bretagna vorrà avere una corsia, non dico preferenziale, ma un trattamento di favore. Insomma, è tutta da scrivere la storia della Brexit. Questo è l'unico punto che vale la pena sottolineare, lo dico a chi sta scrivendo. Per quello che riguarda la borsa, invece, segnalo che l'indice di Milano è un più 0,20%, assolutamente in linea con Parigi, più 0,20%, Francoforte più 0,10%. Londra invariata, Dow Jones invariato anch'esso, non ci sono grossissimi movimenti oggi sui titoli, generali più 2, media 7 più 1,90 come Unipol, l'1,5 lo guadagna Mediobanca, CNH più 1,40 come Steamicroelectronics, l'1% rialzo di Luxottica e di Exor. Chi perde invece? Italgas meno 1,5, Eni meno 1,40, Campari meno 1,20 come Telecom, Terna meno 0,80%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, qualcuno mi dice che la flat tax potrebbero introdurla anche per i ricchi evasori di casa nostra, così. Vabbè, non mi sembra oggetto di nessuna discussione politica. Vedo che c'è qualcuno che mi dice, mi scusi, io ho 150.000 euro lordi, 4 figli a carico, pago 70.000 euro di tasse dirette, è roba da fare la rivoluzione con questa notizia. Sì, lì bisogna capire se non sia un vantaggio avere questi soldi, diciamo, perché è chiaro che qualcosa devi offrire se vuoi intercettare i miliardari, i ricchi che hanno in questo momento sede anche fiscale in Gran Bretagna. Parliamo di persone fisiche però, non di società. Comunque, adesso vi arriveremo. Andiamo invece sugli Stati Uniti, dove il settore privato ha creato 298.000 posti di lavoro, un dato superiore alle attese. Invece Samsung, come effetto immagino anche della politica di Trump, dirotta un investimento che era previsto in Messico negli Stati Uniti, 300 milioni di dollari nella produzione di elettrodomestici con la creazione di 500 posti di lavoro, così riporta il Wall Street Journal. Doveva essere fatto in Messico, ma la posizione di Trump è uno dei fattori che avrebbe spinto Samsung a rivedere i suoi piani iniziali. Porta chiusa invece per quello che riguarda Fiat Chrysler da parte di Volkswagen. Dopo le dichiarazioni di ieri di Sergio Marchionne, ha detto che aveva accennato la possibilità di contatti con i tedeschi, ne parleremo più avanti, dice Volkswagen, non siamo disponibili a parlare di alleanze. Müller ha detto, abbiamo altri problemi, non vedo Marchionne da mesi. E poi le grandi multinazionali alimentari, mi riferisco a Coca-Cola, Mars, Mondial International, Nestlé, PepsiCo e Unilever, hanno ufficialmente appoggiato un sistema di etichettatura nutrizionale a semaforo armonizzato a livello europeo. Vogliono lanciare una task force integrata per integrare informazioni sulle porzioni allo schema di codici colore applicato in Gran Bretagna e in Irlanda. I progressi saranno condivisi con le parti interessate e con le ONG, con il mondo alimentare, con la Commissione Europea, per identificare una soluzione credibile e praticabile. Netto, devo dire, netta opposizione da parte sia del ministro alle politiche agricole Martina, ha detto: scriveremo ancora nelle prossime ore alla Commissione Europea di intervenire per impedire la diffusione di un elemento così distorsivo del mercato, questo semaforo, che andrebbe a penalizzare i prodotti italiani. E netta opposizione anche del presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia, che ha detto: è un sistema semplicistico assolutamente non in grado di garantire ai consumatori un'alimentazione equilibrata, che diventa discriminatorio rispetto a prodotti di qualità e di eccellenza, va a ledere gravemente il modello produttivo italiano basato proprio su standard qualitativi elevati e che l'industria italiana ha sempre evidenziato nel segno della trasparenza. Preoccupata anche la Coldiretti, perché prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, grana padano e anche olio extravergine di oliva sarebbero tra le vittime illustri del semaforo. È chiaro che se tu metti un semaforo così grezzo, diciamo, è un tanto al chilo, metti assieme formaggi, prodotti, lo dico senza offesa, anche in Gran Bretagna, insomma, cioè, paragonare certi formaggi alla qualità dei nostri prodotti, ovvio che un semaforo non lo può fare. Allora, se qualunque formaggio prodotto, diciamo, anche con scarti, insomma, in maniera sicuramente meno controllata dai nostri, viene equiparato al parmigiano reggiano, al grana padano, è ovvio che per noi questo è un danno, punto e basta. Allora, invece, per quello che riguarda la Germania, la produzione industriale a gennaio sale del 2,8%, in crescita rispetto a dicembre, quando era del 2,4%. Veniamo all'Italia, per quello che riguarda il messaggio del Premier Gentiloni all'Europa sulle riforme, l'Italia è impegnata come pochi paesi, il percorso non si ferma, quindi non accettiamo lezioni, visto che si lavora nell'interesse comune, questo in vista del Consiglio europeo. E tra l'altro ha detto: il problema dei migranti non lo cancella neppure il mago Merlino, e come diciamo no alle rigidità con le virgole sui bilanci, così diciamo no alla rigidità distratta sui temi dell'accoglienza. Il tema è molto semplice, cioè, qui abbiamo un'Europa che assolutamente attenta allo zero virgola, e torniamo al tema del deficit, e invece quando si tratta di far applicare altre decisioni di carattere europeo, per esempio le quote di ricollocamento dei migranti, questo minacce di procedimento per infrazione delle regole europee sono molto molto blande. Allora sentiamo Gentiloni sul tema delle riforme dell'Italia, appunto, che non accetta lezioni da nessuno. È un equilibrio difficile, rispettare le regole e cercare di modificare le politiche, ma è la strada che dobbiamo percorrere per far sì che l'Unione Europea abbia un ruolo di accompagnamento e non di depressione della crescita economica, il che è particolarmente necessario per noi. Sappiamo che la crescita economica nel nostro Paese è ancora lenta. A Bruxelles deve essere molto chiaro, tuttavia, da subito, poi sarà anche formalizzato nel mese di aprile, che in Italia le riforme non solo non si sono fermate, ma non hanno minimamente rallentato il loro corso. Del resto, chi svolge attività in Senato, alla Camera, lo sa perfettamente. Ancora due notizie, poi partiamo con la Gran Bretagna. Mi riferisco da un lato alla dichiarazione del ministro Calenda su due temi. Uno riguarda la vicenda della K-Flex, ossia gruppo che ha uno stabilimento chimico a Roncello, Monza Brianza, la provincia, prevede di chiudere l'impianto e trasferire la produzione in Polonia con 187 esuberi su 240 dipendenti. Da 40 giorni i dipendenti sono in presidio davanti ai cancelli dell'azienda, che aveva ottenuto anche i finanziamenti pubblici della Cassa Depositi e Prestiti. Ecco perché interviene a maggior ragione il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha detto è incomprensibile e non giustificata la decisione di cessare l'attività in Italia. C'era un accordo a non delocalizzare. Al Mises, al Ministero dello Sviluppo Economico, si è parlato di ristrutturare lo stabilimento. Non intendiamo subire questo comportamento da parte dell'azienda, è necessario un passo indietro. E, appunto, questo dopo la decisione di spostare buona parte dello stabilimento in Polonia. K-Flex, però, ha detto Calenda, è una multinazionale che opera in 10 paesi e non è un'azienda in crisi. Noi abbiamo prontamente attivato un tavolo di confronto per cercare una soluzione. In aggiunta, continua Calenda, la Siemens ha partecipato a 5 aumenti di capitale. Siemens vuol dire soldi nostri, aggiungo io, per 17 milioni di euro, 5 milioni dei quali sono rientrati, altri 12 no. Per cui, insomma, oggettivamente non si capisce il comportamento della K-Flex. Non puoi prima prendere i soldi e poi decidere di spostare non avendo una crisi aziendale in corso in Polonia. Non è questo il modo in cui tu puoi operare in Italia. Ancora, per quello che riguarda le dichiarazioni di Calenda, faccio notare che è intervenuto anche sul tema delle concessioni balneari, altro tema che ciclicamente ritorna, perché la prima cosa che farò come governo è chiedere che ci sia un registro per la trasparenza delle concessioni balneari. Ci sono 25.000 concessioni che pagano complessivamente 104 milioni di euro. Facendo una semplice divisione, il risultato è meno di quanto paga un ambulante per un banchetto 5 metri per 3. E allora, che cosa c'è di equo in questo? E la norma potrebbe entrare nel DDL concorrenza. Qui lo dico col massimo rispetto verso chi gestisce una concessione balneare. Allora, sappiamo tutti che ci sono concessioni e concessioni, che ci sono concessioni che operano, che non, insomma, non vivono e non diventano certo ricchi coloro i quali le hanno. Però attenzione, perché obiettivamente poi l'obiezione è sempre: ma noi facciamo investimenti sul... Ho capito, però la concessione si paga, è un pezzo di territorio italiano. Allora, nessuno sta equiparando, diciamo, quello che può essere ricavo in zone diciamo balneari di minor pregio con prezzi molto più scontati. Però non è neanche immaginabile che tutto il mondo delle concessioni balneari, che va, diciamo, dalla Liguria alla Toscana e parlo anche da parte adriatica, abbia un complessivamente paghi per 25.000 concessioni 104 milioni di euro. Se poi la risposta deve essere aumenteremo le tariffe di lettini e ombrelloni per chi ci andrà, allora vabbè, quello si chiama ricatto. Dopodiché io posso anche dire, cioè, esiste anche un libero mercato, c'è chi lo farà, immagino a fronte di un servizio. Se lo fai a fronte di nessun servizio, uno può anche fare altre scelte. Cioè, non è che la risposta può solo essere se tu mi aumenti di un euro la concessione, e ci sono casi, anche qui lo dico con massimo rispetto, di persone che si possono permettere di gestire una concessione balneare 3, 4, 5 mesi e non lavorare il resto dell'anno. Allora, o facciamo di nuovo la difesa a prescindere a priori delle concessioni balneari, delle volte date veramente a prezzi che urlano vendetta. Il raffronto con quello che è la media di un ambulante lo fa Calenda, non lo faccio io, però anche quello, no? Allora, ultima notizia invece riguarda i voucher, perché torna l'ipotesi di lanciare l'utilizzo dei voucher, di lasciare l'utilizzo dei voucher alle imprese con zero dipendenti e non più solo alle famiglie. Questo è l'orientamento del testo unico sulla modifica della disciplina dei voucher presentato da Patrizia Maestri del PD, una bozza che sarà presentata poi in commissione lavoro della Camera domani, e sostanzialmente alcune modifiche. L'intenzione è quella, appunto, di aggiungere dei limiti per far sì che l'utilizzo dei voucher ritorni a essere davvero solo per il lavoro occasionale, ed era fatto e pensato in primo luogo per l'agricoltura e il mondo del turismo. Su questo, sugli interventi correttivi, si concentra in 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi la commissione dei 9 alla Camera proverà a mettere la parola fine alla riforma dei voucher, i buoni lavoro di 10 euro lordi, ormai oggetto di palesi abusi, che hanno fatto lievitare il loro utilizzo a oltre 133 milioni di unità, con un introito, va detto, per l'Inps che supera i 300 milioni di euro. I voucher sono al centro di una delle proposte referendarie volute dalla CGIL e ammesse dalla Consulta. Sarà proprio la CGIL infatti ad avere l'ultima parola sul testo di riforma, perché dovrà dire se si tratta di un provvedimento che può far evitare la consultazione popolare oppure no. Sono due le proposte in campo, la prima di Cesare Damiano, ex ministro del lavoro ed esponente del PD, che limita l'uso dei buoni lavoro soltanto alle famiglie per pagare badanti, babysitter, colf, lavoretti vari di giardinaggio, con un tetto ribassato a 5.000 euro l'anno rispetto a quello previsto oggi a 7.000 euro. Questa ipotesi prevede solo tre eccezioni: per la pubblica amministrazione per gestire calamità naturali o manifestazioni straordinarie, per i piccoli comuni per retribuire disoccupati o disabili impegnati in operazioni di pubblica utilità, per studenti e pensionati ingaggiati invece in vendemmie o raccolte nelle campagne. Tutto il resto è fuori: industria, commercio, edilizia, turismo, servizi, settori, soprattutto il turismo, dove i voucher però sono stati usati a piene mani. L'altra proposta è caldeggiata dall'NCD, quindi da un partito della maggioranza, e dalla Lega, e punta a mantenere tra gli utilizzatori dei voucher anche le imprese con nessuno o con un solo dipendente, le mini aziende insomma, che sono circa 3 milioni in Italia. Speriamo che la Commissione dei 9 faccia una sintesi razionale. L'importante è che venga mantenuto lo spirito iniziale dei voucher, vale a dire una forma di remunerazione dei lavoretti che serviva a far uscire allo scoperto decine di migliaia di piccoli impieghi e a recuperare contributi previdenziali altrimenti perduti per sempre. Ciò che non dovrà più essere è che i buoni lavoro possano sostituire occupazione in pianta stabile. Per quella ci sono già le norme del Jobs Act e francamente tanto basta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo col primo tema, la flat tax per gli stranieri ricchi. Vedo che qualcuno la propone anche per i concessionari di stabilimenti balneari. Altri mi scrivono: ma se aumentano i costi delle concessioni poi la paghiamo noi i bagnanti, cioè noi. Sì, ho capito, però allora non è che questo può sempre essere l'unico ragionamento. Allora diamogliela gratis, così vediamo se paghiamo di meno. Non è così, perché ci sono anche dei margini di guadagno. Ma nessuno, dico semplicemente che ci vuole un po' di equità. Che lo Stato ricavi per tutte le concessioni balneari 104 milioni di euro l'anno, sono 25.000 concessioni, fa ridere. Questo lo possiamo dire? Fa ridere? Allora, altri mi scrivono: ma come? Al macellaio che non consegna lo scontrino viene sanzionato, adesso facciamo la flat tax per i ricchi. Allora, il problema qui è inquadrare anche il tema. Ci sono dei paesi, penso alla Spagna, che si sono già attrezzati per offrire un'opportunità fiscale agli stranieri ricchi, cioè chi ha da anni, da progetto di legge su ben visto nostro, è da almeno 9 anni fiscali negli ultimi 10 anni, residenza all'estero e si sposta in Italia. Potrebbe, se ho ben capito, scegliere di attivare la cosiddetta flat tax, ossia una tassa fissa da 100.000 euro e poi si è a posto con il fisco. Giovanni Parente, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, è così e arriva come risposta, diciamo, a iniziative di altri paesi europei per intercettare i ricchi che lasceranno la Gran Bretagna dopo la Brexit? Assolutamente sì, è una misura post-Brexit che l'Italia ha adottato nell'ultima legge di bilancio e che viene attuata appunto oggi con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che punta a far entrare nel nostro paese i capitali esteri attraverso il meccanismo di una tassazione agevolata che riguarda esclusivamente i redditi prodotti all'estero. Quindi vuole dire che se il soggetto entra in Italia, produce dei redditi in Italia con un'attività economica, segue le normali regole della tassazione progressiva IRPEF. Questa è una flat tax di 100.000 euro che si applica appunto a tutto quello che il soggetto che si trasferisce in Italia guadagna dalle sue attività all'estero. Chiaro che possiamo anche parlare di ingenti guadagni avvenuti all'estero e quindi forse la tassazione avrebbe dovuto essere anche superiore. Ricordiamo però che i sistemi fiscali in qualche modo sono intercomunicanti fra di loro, quindi c'è tutto un meccanismo delle doppie imposizioni che fa sì che poi magari quella tassazione non sarebbe stata recuperata direttamente dallo Stato italiano. Quindi è un modo per garantirsi un certo quantitativo di imposte predefinito, 100.000 euro, però tassandolo esclusivamente, che tassa esclusivamente tutto quello che viene prodotto all'estero da questi neoresidenti. Ecco, ho capito. Dunque, la convenienza, se ho ben capito, è soprattutto per chi ha grandi patrimoni e redditi, ma anche per chi ha famiglie numerose con guadagni a molte cifre, perché potrebbe beneficiarne anche i familiari pagando un ulteriore gettone da 25.000 euro. Vorrei capire come si è arrivati a questa soglia dei 100.000 euro dopo il meteo e la pubblicità, e capire invece cosa stanno facendo anche gli altri paesi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, da questo punto di vista, Giovanni Parente, mi chiedono gli ascoltatori, ma scusate, ma se uno produce un reddito da tassare all'estero, come fa poi ed è residente in Italia? Cioè, come funzionerebbe? Avrebbe una doppia tassazione? Eh sì, esattamente, e per questo viene anche introdotta la flat tax, per avere meno problemi di doppia imposizione con l'estero. Chiaramente, una volta spostata la residenza in Italia, il soggetto comunque mantiene le attività all'estero, non è che le abbandona, quelle attività sono produttive di reddito e quel reddito ovviamente è un reddito pienamente tassabile. Per questo è stata scelta questa formula, che dà anche una garanzia di certezza al soggetto che vuole spostarsi in Italia, anche perché diciamocelo chiaramente, il sistema fiscale italiano a noi spaventa perché il carico è elevato, ma dall'estero viene visto soprattutto come un sistema complicatissimo in cui non si riesce a raccapezzare, e soprattutto che porta un elevato rischio di contestazione da parte del fisco una volta avviata un'attività o sviluppata un'attività in Italia. Quindi è una misura che va più nel solco di dare certezza del diritto per poter attrarre i soggetti. Sì, no, lavoriamo anche noi ogni tanto la certezza del diritto, però mi rendo conto che in questo caso l'obiettivo sia un altro. Qualcuno mi chiede, ma quando? No, è da oggi, giusto Giovanni? Col provvedimento diventa pienamente operativa. Quindi, insomma, quindi è pienamente operativa e c'è una checklist dell'Agenzia delle Entrate che uno può consultare per poi presentare una specifica istanza alla direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Vedremo, andremo a fare anche un bilancio di quello che sarà. Quali sono gli altri paesi che sono già mossi, mi chiedono gli ascoltatori? Ma sono meccanismi simili, non proprio identici, sono stati adottati nel recente passato, come ricordavi giustamente tu, anche in Spagna, ma tutta una serie di stati e l'est europeo, attenzione a non ridere su questa cosa perché è molto importante da un punto di vista di attrattività, hanno previsto delle flat tax interne ed esterne, cioè per soggetti già residenti, per soggetti trasferiti dalla residenza, che sono fortemente stati capaci di attrarre capitali su quei territori. Quindi insomma, è una misura che ovviamente dovremmo sperimentare e capire se darà dei frutti. Tra l'altro, nell'ultima legge di bilancio non era l'unica misura per stimolare i capitali dall'estero, tanto è vero che sono stati previsti una sorta di visti d'ingresso economici proprio per soggetti con alti redditi che vengono in Italia e investono ad esempio in bot, nel recupero del patrimonio artistico e paesaggistico, in start-up. Quindi queste due misure vanno di pari passo. Un'ultima precisazione: è chiaro che la flat tax è operativa da oggi perché c'è il tassello attuativo, però è un'opzione che si esercita all'interno della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nella dichiarazione dei redditi, e quindi è valida per il periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Quindi da lì scaturisce la volontà del contribuente di aderire a questo regime, e le imposte poi si pagano secondo le scadenze che vengono previste per il versamento delle imposte dirette anche per i soggetti più normalmente residenti in Italia. Allora, grazie, vedo molti messaggi anche critici. Sì, io penso che le due cose, insomma, uno può chiedere un diverso approccio fiscale in Italia senza rinunciare al fatto di poter almeno tentare di intercettare chi si sposterà dalla Gran Bretagna, che ha sempre accolto proprio per via del suo sistema fiscale più basso come pressione e più semplice. Lo dico anche per esperienza diretta, quando lavoravo in Gran Bretagna era di una facilità incredibile, mica c'era bisogno del commercialista per capire quanto avresti pagato, diciamo, in busta. Al tempo, se non ricordo male, era il 25% fino a una certa soglia, non mi ricordo più il numero di pound, sono passati un po' di anni, e poi il 35% su tutta la differenza, più semplice di così. Lo facevi anche a casa sul tavolo di cucina il calcolo. E si tratta di intercettare appunto chi soprattutto se ne andrà dalla Gran Bretagna e vuole mantenere però una residenza fiscale nell'Unione Europea. Grazie intanto a Giovanni Parente. Oh, lo dico senza ironia, quando noi possiamo correggere, non capita molto spesso, ahimè, i dati della nostra classifica, poco invidiabile classifica del venerdì sugli sprechi di denaro pubblico a qualunque livello statale, regionale, provinciale, comunale, siamo contenti, nel senso che rettificare uno spreco che non c'è o un dato economico che va meglio di quanto non risultasse a noi è bello. Io vorrei proprio arrivare a un momento in cui potremmo eliminare la classifica, ma non per... perché siamo sfiniti, perché la classifica non avrà più materiale da ricordare. Lo dico perché la settimana scorsa abbiamo dato il primo posto, se non ricordo male, alla Fiera di Roma, i debiti arrivati a 200 milioni, la vecchia fiera che non si riesce a vendere, la nuova fiera che non gira. In realtà abbiamo, grazie anche alla segnalazione che è arrivata, e quindi ringrazio l'amministratore unico di Fiera di Roma, Pietro Piccinetti, buonasera. Buonasera, grazie a lei. Grazie alla sua segnalazione abbiamo scoperto che in realtà i nostri dati erano un po' vecchi, non ho nessun problema a riconoscerlo, e quindi che c'erano stati dei miglioramenti intercorsi in questi mesi. Ne parliamo dopo il traffico, perché correttamente non ho mai amato, lo dico anche la mia categoria, quando la notizia negativa occupa le 9 colonne e poi invece la notizia, la correzione, la rettifica positiva ha lo spazio di una breve o di un boxino. No, diamo lo stesso spazio, e quindi se la Fiera di Roma, diciamo, sta registrando un miglioramento di conto economico a partire dalla EBITDA e quant'altro, volentieri la diamo. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, dicevamo, Fiera di Roma, rispetto a quanto, non parlo della vecchia fiera ma della nuova fiera, rispetto, diciamo, alla società in concordato dal 2015 a causa di un grave dissesto economico, da un anno fa, qual è stato, Piccinetti, il miglioramento dei conti, inteso come fatturato ma anche come margine? Allora, innanzitutto buonasera, grazie mille, questo qui ovviamente le fa onore. Siamo ancora ovviamente in bollino rosso perché siamo una società in concordato. Io sono stato chiamato ad aprile dell'anno scorso, abbiamo migliorato sia il conto economico dal punto di vista dei risultati, sia il fatturato. La cosa più interessante e più importante è quello a cui tenevo a dirlo, che abbiamo iniziato, diciamo, un percorso virtuoso che porterà comunque al raggiungimento di un pareggio di bilancio con un business, diciamo, con un piano industriale fatto ad hoc per la Fiera di Roma. La Fiera di Roma ha delle potenzialità, secondo noi, enormi, e questo lo devo anche agli azionisti. Gli azionisti mi hanno chiamato, io sono un tecnico del settore fieristico, mi hanno chiamato per rilanciare la Fiera di Roma. La Fiera di Roma ha tante possibilità, uno su tutto il congressuale. Abbiamo ospitato ad agosto il più grande congresso di cardiologia al mondo, che hanno stimato, non noi, ma tecnici come indotto solamente sulla città di Roma, circa 200 milioni. Consideri che possiamo scalare veramente delle classifiche importantissime, ma non solamente Fiera di Roma, facendo anche sistema con tutte le altre Beh sì, intanto il ministro Calenda ha spiegato che non vuole più vedere le fiere concorrenti, dare i soldi solo alle fiere che lavorano in sinergia. Giusto, no, dico però, siccome voi siete terzi come attrattività turistica e tredicesimi in Europa invece come fiera, è chiaro che potete scalare le posizioni. Su quali direttrici state puntando, visto che appunto, se ho ben visto, il fatturato è stato di 21 milioni l'anno scorso, con 1,5 milioni di visitatori, e dovreste arrivare al pareggio quando? Fra, diciamo nel 2018 dovremmo essere al pareggio. 2018, speriamo. Ma dico, su quali direttrici state puntando? Stiamo puntando moltissimo, ovviamente, come dicevo, sul congressuale, sulle manifestazioni internazionali, perciò sulle internazionalizzazioni. Siamo stati la prima fiera che ha ospitato la fiera dell'Iran. Abbiamo convinto l'Iran a venire qui da noi a novembre, ha fatto l'Iran County Presentation con 1300 B2B, 150 aziende, e l'innovazione e sviluppo sulle attività produttive, una su tutte, la BLAST, che avremo nel nostro progetto, che ci sarà adesso a Firenze, vi invito tutti a venire, è veramente molto interessante, la prima fiera italiana delle start-up vere, dal 10 al 12 maggio qui in Fiera di Roma. Queste sono le linee guida strategiche che stiamo percorrendo. Voglio veramente ringraziare gli azionisti, soprattutto la Camera di Commercio, che ha creduto tantissimo in questo rilancio, la Regione. Senta, a quant'è il debito tuttora? Ma allora, il debito di Fiera di Roma, perché ci sono due, purtroppo, quando lei l'altro giorno ha detto, è un discorso di investimenti. Investimenti, che la capogruppo ha il debito, purtroppo, che nasce dalla costruzione della nuova fiera e dalla mancata vendita fino ad oggi della vecchia fiera. Che è circa, come ha detto lei, sui 180 milioni, 200 milioni, però noi abbiamo fatto adesso un piano industriale insieme al piano di investimenti per ritornare questo debito. Questo è il piano, è stato fatto, adesso lo presenteremo. Investimenti, ma investimenti non è Fiera Roma, ribadisco, investimenti SPA ha un 67, un articolo 67 firmato con Unicredit che deve rifare. Ah, i debiti l'abbiamo raccontato, anche perché nel costruire la nuova Fiera di Roma non si è riusciti a vendere la vecchia Fiera di Roma. Comunque i debiti sono circa 180-200 milioni, capito? Perché sì, l'ho sentito male? Sì signore, sì signore. Ok. Allora, in bocca al lupo per la Fiera di Roma e perché raggiunga un pareggio nel 2018. Noi seguiamo da sempre, lo dico che mi sta scrivendo tutto il mondo fieristico, e lo seguiamo anche sul territorio, nel senso che spesso trasmettiamo come accordi tra Radio 24 e determinate fiere, trasmettiamo da queste fiere. È un momento importantissimo di visibilità per il nostro sistema produttivo, quindi lo seguiamo come un soggetto importante, oltre che essere anche presenti e vedere come vengono organizzate e come si muove il sistema fieristico italiano. Grazie allora, dicevo, di nuovo all'amministratore delegato unico di Fiera di Roma, Pietro Piccinetti. Andiamo sulla borsa. Giornata piatta, qualcuno mi chiede l'euro su dollaro, euro a 1,05, piatta perché Parigi fa più 0,1, Francoforte fa 0, Londra fa 0, Dow Jones fa meno 0,1, FTSE MIB più 0,14, insomma, non la ricorderemo negli annali borsistici. Eni meno 1,60, Telecom meno 0,80 come Tenaris, Italgas meno 0,60, Unipol più 1,80, Generali più 1,70 come Mediaset, l'1,60 lo guadagna ST Microelectronics, e l'1,5 rialzi Case New Holland. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Dacci il polso della giornata, poi dopo il GR 24 affronteremo anche alcuni titoli. Sì, diciamo una giornata interlocutoria, l'attesa è per le banche centrali, domani c'è l'appuntamento con la BCE, mentre la prossima settimana tocca la Federal Reserve, che secondo le ultime attese dovrebbe alzare i tassi di interesse. In vista dell'appuntamento con la Fed venerdì, il mercato attende i dati sul mercato del lavoro americano, quindi in vista di tutti questi appuntamenti importanti sul fronte macroeconomico, oggi la giornata è stata proprio nel segno della cautela e della prudenza. Il movimento principale è quello dei petroliferi a causa del calo del greggio, e anche in questo caso il motivo arriva da oltreoceano, perché c'è stato un aumento superiore alle attese delle scorte americane che ha spinto al ribasso il prezzo del petrolio. Sì, poi ci sono dichiarazioni di Descalzi per quello che riguarda l'Eni, di Recchi per quello che riguarda Telecom, ma ne parliamo dopo il GR24, di nuovo 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie molto movimentate al Falco e Gabbiano. Cominciamo con un grande regista, un grande musicista che è un po' il lato irriverente dei Balcani, Emir Kusturica. E poi la donna che correva in macchina lasciandosi dietro gli uomini, Ada Pace. Franky Valli, il mitico cantante che fu la voce degli italoamericani. L'hanno definito l'Arsenio Lupin della Riviera, Renato Rinino, l'uomo che a sua insaputa rubò i gioielli di Carlo d'Inghilterra. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, Il Falco e Gabbiano. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. I wanna be free, set free. Minuti, torniamo in diretta. Allora finiamo e concludiamo l'approfondimento di borsa con Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore. Dicevamo, al di là della giornata complessiva, Eni anche alla luce delle dichiarazioni di Descalzi e Telecom anche alla luce delle dichiarazioni del presidente Recchi. Sì, per quanto riguarda Eni, diciamo che si tratta soprattutto di un movimento generale del settore energetico europeo, che infatti è stato uno dei peggiori sottoindici del comparto, ha ceduto lo 0,81% a causa del calo del prezzo del petrolio. Il WTI sta scendendo adesso del 2% e il Brent dell'1,9%, e qui la motivazione è l'aumento superiore alle attese, come dicevamo prima, delle scorte americane. E per quanto riguarda Telecom Italia, invece, il fattore che ha determinato la debolezza del titolo sono le dichiarazioni di ieri di Iliad, che si mostra abbastanza agguerrita sul fronte della concorrenza, punta a ottenere una quota di mercato significativa e ha annunciato di volerlo fare soprattutto puntando su prezzi inferiori alle attuali offerte più convenienti. L'arrivo di Iliad è previsto tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, ma diciamo che il mercato deve iniziare a fare i conti anche con lei. Allora, per quello che riguarda invece Fiat Chrysler, positiva, nonostante mi sembra lo stop è arrivato da Volkswagen all'ipotesi di un accordo con Fiat, a cui aveva fatto riferimento ieri il numero uno Marchionne. Su Fiat Chrysler chiude con lo 0,60%. Faccio notare che oggi su tema Fiat ci sono anche altre dichiarazioni di Marchionne per quello che riguarda, allora, la dichiarazione del numero uno Matthias Müller di Volkswagen è che non vedo Marchionne da mesi, non siamo disponibili a parlare di alleanze, abbiamo altri problemi. Poi nel frattempo ci sono notizie invece sul piano industriale per Pomigliano d'Arco, slitta a giugno la comunicazione di Fiat Chrysler ai sindacati dei modelli che saranno prodotti nello stabilimento. C'è il tema al posto della Panda che andrà in Polonia, lo ha reso noto sia il segretario generale campano della Wilm. Poi Alfredo Altavilla, responsabile di Fiat Chrysler in Europa, ha detto che per Pomigliano abbiamo delle idee, un piano che condivideremo con i sindacati e il 31 marzo, e poi daremo una risposta. Il progetto della nuova Panda sarà pronto in tempo per uscire nel 2020. Marchionne è stato molto chiaro, ha continuato Altavilla: Pomigliano si faranno vetture premium e i modelli premium del gruppo sono Alfa, Maserati e Jeep. Sceglieremo tra questi brand. La Panda continuerà a essere prodotta a Pomigliano per altri 2 anni e mezzo, poi la nuova Panda andrà invece in Polonia. E poi ha detto Altavia: attenzione, perché il mercato delle immatricolazioni dell'Unione Europea non ripeterà la crescita del 2016. Questo per quello che riguardava Fiat. Andiamo sui migliori e peggiori. Vita, società editoriale, più 14,60, gruppo Green Power più 13,30, Media Contact più 11,40%, Juventus più 10%, Adidas più 9,20%. Fronte opposto invece, IMAC meno 9,80, Pininfarina meno 8, Invest meno 5,80, primi sui motori meno 3,30%. Grazie a Paolo Pronetto, Radio Corri, Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Pour me a taste of something good. Allora, l'8 marzo sia l'occasione per parlare in maniera economica e come materia economica del ruolo e ancora delle disuguaglianze che esistono nel mondo femminile. Sapete che oggi, oltre che essere la festa della donna, per la prima volta a livello mondiale sono 40 i paesi, vi sono manifestazioni, scioperi contro i femminicidi, la discriminazione e la violenza. Alcuni hanno detto che l'effetto potrebbe essere boomerang, perché vai a penalizzare, penso ai mezzi pubblici, proprio le donne lavoratrici e mamme. Però insomma, al di là di questo, faccio notare che a livello mondiale, e lo cita oggi la presidente di Oxfam Italia, Maurizia Iacchino, ci vorranno 170 anni per colmare il gap, la differenza di reddito tra uomo e donna. 52 anni più di un anno fa. I dati sono molto diversi chiaramente a livello dei vari paesi. Per quello che riguarda il gap in Unione Europea del 40%, in Italia del 44%, e ci vorrà un secolo a colmare la lacuna. In realtà io poi vorrei parlare anche proprio dei dati specificatamente italiani sui due estremi, la fascia alta dirigenziale e la parte invece più svantaggiata, ossia la disoccupazione femminile. Però sentiamo intanto le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi al Quirinale, appunto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sono ben consapevole che le donne, non soltanto in Italia, danno alla società più di quanto ricevono in cambio. Ciò nonostante, quella delle donne è un'azione tenace, risoluta, paziente e molto spesso coraggiosa. Pour me a taste of something good. Così appunto il Presidente della Repubblica nel corso anche di uno degli eventi oggi organizzati per l'8 marzo. Qualche dato però, visto che questo programma continua a occuparsi di economia, dobbiamo darlo, e lo diamo volutamente nei due estremi, cioè la parte bassa, la disoccupazione, la parte alta, e quindi livelli più dirigenziali, perché da sempre si dice che nel basso tutte le forme di crisi, di difficoltà economica si scaricano di più su donne e giovani, se poi una è donna e anche giovane siamo al peggio del peggio, mentre nella parte alta la famosa espressione del tetto di cristallo che non si riesce a sfondare. Allora partiamo dalla parte alta. Le donne dirigenti nel settore privato sono cresciute del 20% negli ultimi 5 anni, sono comunque solo ancora il 16% del totale, quindi la tendenza è una tendenza tra virgolette positiva, anche perché nello stesso periodo negli ultimi 5 anni gli uomini dirigenti sono calati del 6%. Nessuna rivincita, ma normale, diciamo, sostituzione delle vecchie con le nuove generazioni. Però, ripeto, nonostante questa crescita del 20%, il numero di donne che hanno ruoli dirigenziali nel nostro paese è ancora solo del 16%. Tra l'altro, a livello di settori economici, quelli più, tra virgolette, in rosa sono i servizi, sanità, assistenza sociale, si arriva quasi alla metà, 44%, e istruzione al 40%. Parliamo sempre solo del settore privato. Poi seguono le attività professionali, scientifiche, tecniche, 1 su 5, e i servizi alle imprese. Invece la parte delle costruzioni, la manifattura, ancora ha un dato più basso della media, il 7% delle costruzioni, il 12% la manifattura. Va detto che anche se si scende di un gradino e si guarda non le dirigenti ma i quadri, le proporzioni, diciamo, sono sostanzialmente analoghe. E poi il fronte più basso, perché la disoccupazione giovanile è raddoppiata nelle donne negli ultimi 10 anni, passando dal 25,5% del 2006 al 42%. In alcune regioni al netto del lavoro nero si arriva al 70%, nel mezzogiorno sopra il 50%, in Calabria al 70%. Non è che il nord sia messo tanto meglio, in Lombardia siamo al 33,5%, la migliore regione è il Trentino Alto Adige, ma lo è complessivamente sui dati sulla disoccupazione giovanile, dove la disoccupazione giovanile femminile è al 20%. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Buonasera. Buonasera. E tra l'altro lei è, se non ricordo male, anche calabrese, quindi la regione che ha il tasso più basso di occupazione femminile. Quindi sono ancora per poco donna giovane e giovane per poco del sud. No, le donne sono una categoria svantaggiata per eccellenza. Diciamo, le donne dal nostro punto di vista sono sempre giovani, però abbia pazienza, direttrice. Sì, questo. Allora, al di là però vorrei uscire, per carità, oggi è l'8 marzo, vorrei uscire, non dico dalla retorica, ma diciamo dalle definizioni più generali e delle volte anche generiche, per andare nel concreto. Qui il problema, molto banalmente, è per la sua esperienza, visto che lei ha compiuto tutti i gradini, è di una resistenza quasi corporativa, però di genere maschile, oppure è un tema di difficoltà oggettive? Qui andiamo sul welfare aziendale, sugli strumenti che vengono messi a disposizione del mondo femminile, che su cui sappiamo si scaricano ancora moltissime delle responsabilità nella gestione familiare, purtroppo, ma è venuto a girarci attorno, la donna madre che lavora si becca un carico ulteriore rispetto al padre che lavora. Cioè, è più un problema di resistenza di noi maschietti o di mancate strutture, cose concrete, come abbiamo raccontato 2 giorni fa, per esempio sui tassi demografici? Guardi, nella mia esperienza in realtà più che un problema di resistenza maschile, che confesso di non aver incontrato, nel senso che i miei passaggi di carriera sono stati, diciamo, uguali sia quando ho avuto capi donne che uomini, quindi non ho avuto quel problema, però un tema di organizzazione del tempo e di carenza di strutture di assistenza rispetto alle donne, ecco, questo sì, sicuramente c'è stato. Io supplito con il welfare familiare, soprattutto i nonni, ma non tutte hanno questa possibilità, quindi questo è un problema secondo me molto molto serio. Che va a collegarsi, visto che lo citavo, al tema di 2 giorni fa dei tassi demografici, cioè nei paesi in cui c'è, oltre che un'agevolazione fiscale, anche una rete di, diciamo, concreta di welfare aziendale, ai tassi demografici obiettivamente più alti. Ma secondo lei la Francia penso sia emblematico in questo senso, quindi sì, sono d'accordo con lei. Ecco, ma la resistenza, visto che in questo caso parlo con il direttore generale di Confindustria, la resistenza, diciamo, aziendale è dovuta a un problema di costi? Perché uno potrebbe fare anche un ragionamento: qual è il costo, lo dico in maniera molto trasparente, della donna lavoratrice madre che se non ha nessun supporto deve stare a casa per problemi del figlio, quindi, o comunque chiede anche permessi o aspettative, rispetto ad avere un welfare aziendale? Cioè, è un problema solo di costi o anche di mentalità? Probabilmente in alcuni casi c'è un problema di mentalità e di, diciamo, sfiducia, pregiudizio nei confronti delle donne, però molto spesso c'è un problema di costi. Penso che laddove la donna ha delle difficoltà a gestire, diciamo, la propria famiglia e il lavoro, è evidente che per un datore di lavoro può essere più conveniente puntare su un uomo. Il problema è, anzi, la questione è proprio evitare che questo accada, nel senso che si punti su una donna o su un uomo, ma indipendentemente da difficoltà organizzative o logistiche. Semplicemente se uno è più bravo dell'altro deve andare avanti. Però la questione è proprio eliminare gli ostacoli che impediscono che entrambi i generi abbiano le stesse opportunità. Ecco, secondo lei, visto che si parla molto oggi del tema, non se ne dovrebbe parlare solo oggi, ma dov'è che si insinua la retorica e quindi il luogo comune, anche così un po', che danneggia anche l'altra metà del cielo, chiamiamola così, e dov'è che invece si va a toccare, nei ragionamenti e nelle dichiarazioni che lei anche oggi ha ascoltato, si va a toccare il tema centrale? Cioè, dove c'è retorica e anche un po' di fuffa, dove invece il tema è tutt'altro che risolto? Io non penso che ci sia retorica e fuffa. Adesso francamente il tema non è risolto, lo sappiamo bene che non è risolto, anche se la situazione migliora in maniera progressiva e anche abbastanza importante negli anni. Io un tempo ero convinta che non ci fosse bisogno di quote rosa per le donne, perché il miglioramento della condizione femminile sui luoghi di lavoro e soprattutto delle possibilità di accedere a posizioni dirigenziali fosse una questione di tempo. Questo è vero, però il tempo, diciamo, è forse un pochino troppo lungo, nel senso che bisogna accelerare la possibilità che ci sia effettivamente pari opportunità sia nell'accesso agli incarichi e al lavoro e sia, diciamo, nella possibilità poi di esercitarli. Quindi questo è ancora un problema e secondo me il nostro paese non è sufficientemente attrezzato per garantirlo. E che era il ragionamento, se non ricordo male, di Lella Golfo quando propose appunto la legge poi sulle quote rosa anche nei consigli di amministrazione, cioè il modello norvegese, dare il tempo perché poi usare una misura tra virgolette straordinaria ma temporanea, perché è chiaro che anche la quota fa una forzatura direttrice sul tema del merito, no? Perché tu... Ma io infatti chi mi conosce sa che io non ero affatto favorevole alle quote rosa e questo non ho neanche problemi a dirlo adesso, anche se mi rendo conto che sono stato uno strumento necessario per affrontare un problema. È uno strumento temporaneo, valuteremo gli effetti alla fine dei 9 anni previsti dalla legge. Adesso dovremmo essere intorno a 6 anni, se sì, non è errata, quindi sarà l'ultimo mandato, il prossimo, quello dei consigli, in cui ci saranno le quote rosa imposte per legge, e dopo valuteremo se hanno meno funzionato. Allora vorrei chiudere, però, perché fino adesso abbiamo parlato delle condizioni per rendere, diciamo, ugualmente non solo competitiva ma ugualmente in grado di fare la carriera che svolge l'uomo anche la donna, manager, quadro, impiegata, dipendente, questo non riguarda, però è come se si dovesse proteggere e quindi una protezione passiva su quelle che sono le difficoltà che altrimenti incontra l'universo femminile. Vorrei chiudere su una parte invece in positivo, cioè non per, come protezione, cioè quelle che sono caratteristiche e qualità generalmente, perché anche qui bisogna stare attenti all'eccesso di generalizzazioni, attribuibili a un approccio femminile anche nei luoghi di lavoro, e uso come spunto un passaggio della dichiarazione che ha reso appunto il ministro degli esteri dell'Unione Europea, e mi riferisco chiaramente alla Mogherini. Credo che abbiamo un modo noi donne di negoziare che parte da una concezione diversa del negoziato. Poi generalizzo, ma ci sono sicuramente anche tanti uomini che si potranno ritrovare nelle mie parole. Ma ho notato che per un uomo spesso il negoziato è arrivare ad un punto in cui una parte vince e l'altra parte perde. Per una donna un negoziato è trovare una soluzione in cui entrambe le parti trovino qualcosa di buono. Trovare il terreno comune, trovare una soluzione che unisca. Beh, insomma, non è banale quanto dice Federica Mogherini, nel senso che, se posso ulteriormente forzare il concetto, nell'approccio maschile c'è comunque un approccio win-lose, tu vinci, l'altro perde, o tu perdi, l'altro vince. Una maggiore capacità di andare a trattare e di vedere se si riesce ad avere un cosiddetto approccio win-win, in cui tutte e due le parti ottengono qualcosa, beh, non è qualcosa di poco quando si ha una trattativa aziendale o comunque una gestione aziendale fatta al femminile. Lei si ritrova in queste caratteristiche e ne vuole aggiungere qualcun'altra, direttrice? Allora, mi ritrovo, anche se appunto non è una caratteristica esclusiva delle donne, ma lo diceva anche la Mogherini, che ha ragione, però sicuramente mi ritrovo, perché abbiamo probabilmente un'attitudine, una pazienza, una capacità di includere che è, diciamo, abbastanza femminile. Però io penso che ci sia anche un'altra caratteristica importante che hanno le donne, che è la capacità di fare più cose allo stesso tempo, di organizzarsi, di gestire, diciamo, temi diversi dalla famiglia al lavoro allo stesso momento. Cioè, quante volte ti capita di essere in una riunione importante, di ricevere la telefonata di tua figlia che ha un problema, glielo devi risolvere, devi ritornare in riunione. Questo capita frequentissimamente a me, così come a moltissime altre mie colleghe. E questa capacità insegna molto, perché ti insegna ad ottimizzare il tempo, non perderlo, cioè hai la voglia di tornare a casa il prima possibile dai tuoi figli, e quindi cerchi di fare tutto velocemente nel migliore dei modi. Questo penso che sia tipicamente femminile, pur non mancando negli uomini sicuramente, però è una caratteristica che ritrovo molto nelle donne. Allora, adesso sono scontati i nostri auguri, ma noi abbiamo anche un bel pubblico femminile, la nostra vicinanza a tutto anche il mondo femminile, nella speranza il prossimo anno, ripeto, nessuno si immagina di avere delle inversioni di tendenza o un cambio drammatico, ma di avere sempre un dato in crescita, non perché uno voglia vedere per forza una predominanza, lo dico a chi mi sta scrivendo, l'egemonia femminile, guardate, non so neanche se la vedrò mai l'egemonia femminile nella mia vita, ma perché a parità di dato statistico e usando una statistica per dati aggregati, un mondo diciamo normale vedrebbe un mondo di una corrispondenza e proiezione nella presenza a livello dirigenziale, a livello quadro, a livello manageriale, così identica a quella che è la proiezione statistica. Sono... Lasci darle un Prego. Segnale di ottimismo, sì. Perché le posso dire che noi in Confindustria i 2/3 dei nostri dipendenti sono donne, la metà dei dirigenti sono donne, e quindi già questo è un buon viatico per arrivare, diciamo, dove lei auspicava di arrivare. Ecco, e aggiungo, visto che qualcuno me lo scrive, che anche a Radio 24 le donne sono la maggioranza, lo dico in maniera, non è frutto di una, né di una quota, ma è solo di una selezione. Ci auguriamo il più possibile meritocratica. Grazie anche alla direttrice generale di Confindustria. Preferisce direttrice o direttore? Direttore. Allora, ecco, no, visto che eravamo in tema. Allora, grazie anche al direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Grazie, arrivederci. Oh, vedo molti messaggi piccati di maschi che dicono: io ho subito un trattamento inverso, io... Oh, sono stato mobbizzato per far posto a donne. Vabbè, dai, c'è tutto questo mondo, per carità, però i dati aggregati sono incontrovertibili. Un augurio di buona serata di nuovo in primo luogo al nostro pubblico femminile, poi a tutto il pubblico maschile di qualunque altro genere. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.